Peste Scarlatta di Jack London, seconda puntata. Sdraiato boccone, intento a scavare oziosamente nella sabbia con le dita dei piedi, Ho-Ho lanciò un grido. Prima si esaminò l'unghia di un dito, poi guardò nella fossetta che aveva formato. Gli altri due ragazzi lo aiutarono subito a scavare rapidamente nella sabbia con le mani, fino a disseppellire 3 scheletri, 2 di adulti e il terzo di bambino. Avvicinatosi, il vecchio osservò la scoperta. «Vittime dell'epidemia», annunciò. «Fu così che morirono ovunque negli ultimi giorni. Questa doveva essere una famiglia che cercò di sfuggire al contagio e perì qui, sulla spiaggia di Cliff House, probabilmente». Con improvviso sgomento domandò: «Che cosa stai facendo, Edwin?» Servendosi del manico del coltello da caccia, Edwin cominciò a staccare i denti da un teschio. «Ci farò una collana», rispose. Anche gli altri due ragazzi si misero all'opera e così, nel gran percuotere, si persero le chiacchiere del nonno. «Siete proprio dei selvaggi. È diventato di moda indossare collane di denti umani. Fra una generazione comincerete a forarvi le narici e le orecchie, a portare ornamenti d'osso e di conchiglia. Lo so bene io. La razza umana è destinata a sprofondare sempre più nelle tenebre primordiali, prima di poter ricominciare la sua ascesa sanguinosa verso la civiltà. Quando saremo più numerosi e comincerà a mancarci lo spazio, inizieremo ad ammazzarci a vicenda. E allora suppongo che voi comincerete a portare scalpi alla cintura, proprio come fai tu, Edwin, che sei il più mite fra i miei nipoti. Eppure porti quella ripugnante coda di porco. Gettala via, Edwin, ragazzo mio, gettala via». «Quanto blatera il vecchio strambo!» commentò Labbro Leporino, impegnato nel tentativo di dividere equamente con gli altri due ragazzi i denti, già tutti estratti dai teschi. I 3 giovinetti furono rapidi e bruschi nei movimenti, e in quegli attimi di accalorata discussione sulla distribuzione dei denti più ambiti, furono i loro discorsi a trasformarsi in un cicaleccio. Parlarono a monosillabi, con brevi frasi spezzate, in un linguaggio quasi inarticolato. Eppure esso lasciava trapelare accenni di costruzione grammaticale, vestigio della complessità di una cultura superiore. Persino il linguaggio del nonno era talmente imbarbarito che, trascritto letteralmente, risulterebbe quasi privo di senso per il lettore. Tuttavia, ciò accadeva soltanto quando parlava ai ragazzi. Allorché si abbandonava invece ai soliloqui, la sua parlata si raffinava poco a poco, sino a diventare un inglese puro. Le frasi si facevano più lunghe e complesse, venivano pronunciate con un ritmo e un'armoniosità che rammentava l'edizione nelle conferenze. Quando la faccenda dei denti si concluse in maniera soddisfacente, Labbro Leporino esortò: «Raccontaci della morte rossa, nonno». «La morte scarlatta», corresse Edwin. «E non usare tutte quelle parole strane con noi», aggiunse Labbro Leporino. «Parla in modo che si capisca, nonno. Come si dovrebbe parlare a Santa Rosa. Gli altri di Santa Rosa non parlano mica come te». Il vecchio, contento della richiesta, si schiarì la gola e cominciò. 20 o 30 anni fa mi chiedevano spesso di raccontare la mia storia, ma di questi tempi nessuno sembra più interessato». «Ci risiamo», sbottò Labbro Leporino. «Lascia perdere le cose strane, parla che si capisca. Che cosa vuol dire interessato? Sembri un bambino che cerca di parlare e non è ancora capace». «Lascialo in pace», intervenne Edwin, «altrimenti si arrabbierà e non ci racconterà niente. Non badare alle parole strane, capiremo lo stesso quello che ci dirà». Mentre il vecchio già borbottava sulla mancanza di rispetto nei confronti degli anziani e sul riaffiorare della crudeltà in tutti gli umani che regredivano dalla vita civile a quella primitiva, Ho-Ho esortò: «Racconta, nonno!» E così la storia cominciò. A quei tempi c'erano moltissime persone al mondo. Soltanto San Francisco aveva 4 milioni. «Che cosa sono i milioni?» interruppe Edwin. Guardandolo benevolmente, il vecchio spiegò: «So che sai contare soltanto fino a 10, perciò te lo dirò. Alza tutte e due le mani. In tutto hai 10 dita, compresi i pollici. Benissimo. Adesso prendo questo granello di sabbia, tienilo tu, Ho-Ho». Lasciò cadere il granello di sabbia nel palmo del ragazzo e proseguì: «Ebbene, Questo granello di sabbia rappresenta altre 10 dita come quelle di Edwin. Ne aggiungo un altro che sta per altre 10 dita, poi ne aggiungo un altro e un altro ancora, fino ad averne tanti quanti sono le dita di Edwin. Così fa 100. Ricordate questa parola, 100. Adesso metto questo sassolino. Guardandolo benevolmente, il vecchio spiegò: "So che sai contare soltanto fino a 10, perciò te lo dirò. Alza tutte e due le mani. In tutto hai 10 dita, compresi i pollici. Benissimo. Adesso prendo questo granello di sabbia. Tienilo tu, ho-ho." Lasciò cadere il granello di sabbia nel palmo del ragazzo e proseguì: "Ebbene, questo granello di sabbia rappresenta altre 10 dita come quelle di Edwin. Ne aggiungo un altro che sta per altre 10 dita, poi ne aggiungo un altro e un altro ancora, fino ad averne tanti quanti sono le dita di Edwin. Così fa 100. Ricordate questa parola, 100. Adesso metto questo sassolino in mano al labbro leporino. Rappresenta 10 granelli di sabbia, vale a dire 10 decine di dita, ossia 100 dita. Adesso conto 10 sassolini che rappresentano 1000 dita. Poi prendo una conchiglia che rappresenta 10 sassolini, vale a dire 100 granelli di sabbia, ossia 1000 dita. E così, meticolosamente, con molte ripetizioni, il vecchio si sforzò di fare in modo che i ragazzi riuscissero, per quanto razzamente, a concepire i numeri. Quando essi non riuscirono più a tenere nelle mani gli oggetti che rappresentavano le quantità crescenti, allineò altri simboli improvvisati sul tronco portato dalla marea. Per trovarli, fu messo a dura prova. Fu costretto a ricorrere ai denti strappati dai teschi per i milioni e ai gusci per i miliardi. Giunto a questo punto si fermò, perché i ragazzi cominciavano a manifestare segni di stanchezza. Insomma, a San Francisco c'erano 4 milioni di persone, 4 denti. Tutti e 3 giovinetti fecero correre lo sguardo dai denti ai sassolini e ai granelli di sabbia che ciascuno di loro teneva in mano, fino alle dita di Edwin. E poi, di nuovo, tutta la serie fino ai denti, nello sforzo di concepire una quantità inimmaginabile. Alla fine Edwin azzardò: "Era davvero tanta gente, nonno." "Era tanta gente, quanta la sabbia su questa spiaggia, ogni granello un uomo, una donna, un bambino." "Sì, ragazzo mio, tutta questa gente viveva proprio qui a San Francisco e di quando in quando, magari non tutta insieme, veniva qui su questa stessa spiaggia. C'erano più persone di quanti sono qui i granelli di sabbia, molte, molte più persone. E San Francisco era una città illustre. E oltre la baia, dove ci accampammo l'anno scorso, viveva ancora più gente. Oltre Point Richmond, sulle pianure e sulle colline, tutto intorno fino a San Leandro, era un'unica grande città di 7 milioni di persone. Ecco, 7 denti, 7 milioni. Di nuovo i ragazzi fecero correre lo sguardo dalle dita di Edwin ai denti sul tronco. Insomma, il mondo era davvero pieno di gente. Secondo il censimento del 2010, in tutto il mondo c'erano 8 miliardi di persone. Sì, 8 gusci di granchio, 8 miliardi. Non era come oggi. L'umanità sapeva molto meglio di adesso come procurarsi il cibo. E più cibo c'era, più gente c'era. Nell'anno 1800 vivevano 120 milioni di persone nella sola Europa. 100 anni più tardi, un granello di sabbia, oh. 100 anni più tardi, nel 1900, l'Europa aveva 500 milioni di abitanti, 5 granelli di sabbia, oh, e un dente. Questo vi dimostra quanto fosse facile procurarsi il cibo e quanto aumentasse il numero della gente. E nell'anno 2000 c'erano 1500 milioni di persone in Europa, ed era lo stesso in tutto il resto del mondo. Ecco, 8 gusci di granchio. Sì, 8 miliardi di persone vivevano sulla Terra quando arrivò la peste scarlatta. Ero giovane io quando iniziò l'epidemia. Avevo 27 anni e vivevo al di là della baia di San Francisco, a Berkeley. Ricordi Edwin, quei grandi case di pietra che abbiamo visto scendendo dalle colline, da Contracosta? Era là che vivevo, in quelle case di pietra. Ero professore di letteratura inglese. Thank you. molto di quello che sentivano superasse le loro capacità di comprensione, i ragazzi si sforzarono di capire vagamente quel racconto del passato. A che cosa servivano quelle case di pietra? Domandò Labbro Leporino. Rammenti quando tuo padre ti insegnò a nuotare? Il ragazzo annuì. Bene, all'Università di California, perché quello era il nome che davamo a quelle case, insegnavamo ai giovani, maschi e femmine, proprio come io poco fa vi ho insegnato con la sabbia, i sassolini e gli scheletri, a capire quante persone vivevano in quel modo. C'erano molte cose da insegnare. I giovani a cui insegnavamo erano chiamati studenti, dentro stanze molto grandi. Io parlavo agli studenti, 40 o 50 alla volta, proprio come sto parlando voi adesso. Parlavo dei libri che altri avevano scritto prima della loro epoca e talvolta della loro stessa epoca. E non facevate altro che parlare, parlare, parlare? Chiese Ho-Oh. Chi cacciava per procurarvi la carne? Chi mungeva le capre? E chi pescava il pesce? È una domanda sensata, oh, proprio una domanda sensata. Come ho già detto, a quei tempi procurarsi il cibo era facile. Eravamo molto saggi, bastavano poche persone a procurare il cibo per molte, che erano occupate a fare altre cose. Come hai detto tu, oh, io parlavo, parlavo in continuazione e per questo mi veniva dato il cibo, molto cibo, ottimo cibo, cibo gustoso che non assaporo da 60 anni e che non assaporerò mai più. Talvolta penso che la conquista più meravigliosa della nostra civiltà fosse il cibo, la sua inconcepibile abbondanza, la sua varietà infinita, la sua sublime prelibatezza. Oh, nipoti miei, la mia era vita a quei tempi, quando avevamo tante cose squisite da mangiare. Giacché questo discorso andava al di là della loro capacità di comprensione, i ragazzi ignorarono le parole e i concetti, come se si trattasse di nulla più che di divagazioni senili inserite nel contesto della narrazione. I nostri procacciatori di cibo erano considerati liberi. Ma era una burla perché noi, che appartenevamo alle classi dominanti, eravamo i proprietari di tutta la terra, di tutte le macchine, assolutamente di tutto. I procacciatori di cibo erano i nostri schiavi. Noi prendevamo quasi tutto il cibo che essi procuravano e a loro ne lasciavamo poco, quel tanto che bastava perché potessero nutrirsi, lavorare e procurarci altro cibo. Io sarei andato nella foresta a trovare il cibo per me stesso, annunciò Labbro Leporino, e se qualcuno avesse cercato di prendermelo, l'avrei ammazzato. Il vecchio rise. Non ti ho forse detto che noi, delle classi dominanti, avevamo tutta la terra, tutta la foresta e tutto di tutto? Punivamo qualsiasi procacciatore di cibo che rifiutasse di lavorare per noi, oppure lo costringevamo a morire di fame. E pochissimi resistevano, preferivano procurarci il cibo, fornirci indumenti, preparare e servire a noi mille, una conchiglia, oh, mille comodità e delizie. Io ero il professor Smith a quell'epoca, il professor James Howard Smith. E le mie lezioni erano molto famose, voglio dire con questo che a molti giovani piaceva ascoltare mentre parlavo dei libri che altri avevano scritto. Ero molto felice, avevo cose buone da mangiare e le mie mani erano delicate perché non le usavo per lavorare, il mio corpo era tutto pulito e vestito con gli indumenti più morbidi. Con disgusto il vecchio guardò la pelle di capra lisa e sbrindellata che indossava. Non portavamo niente del genere a quell'epoca, persino gli schiavi erano vestiti meglio e molti di noi erano puliti, ci lavavamo spesso le mani e la faccia tutti i giorni. Voi ragazzi invece non vi lavate mai, vi bagnate soltanto quando cadete nell'acqua o quando andate a nuotare. Anche tu, nonno, ribatté Ho-Oh. Lo so, sono un vecchio lurido, ma i tempi sono cambiati, nessuno si lava più oggigiorno e non ci sono più comodità. Sono passati 60 anni dall'ultima volta che ho visto un pezzo di sapone. Voi non sapete che cosa sia il sapone e io non ve lo spiegherò perché sto raccontando la storia del morbo scarlatto. Sapete già che cos'è una malattia? Ebbene, morbo è un altro modo per chiamare una malattia. E molti venivano da quelli che chiamavamo germi. Rammentate questa parola, germi. Un germe è un essere piccolissimo, una specie di zecca, come quelle che hanno i cani a primavera quando corrono nella foresta, con la differenza che il germe è piccolissimo, è tanto piccolo che non lo si può neppure vedere. Allora, oh, scoppiò a ridere. Ma sei proprio strano, nonno. Parli di cose che non si vedono. Se non si vedono, come si fa a sapere che esistono? È questo che voglio sapere. Come si fa a sapere che esiste una cosa che non si vede? È una buona domanda, oh, un'ottima domanda. Eppure noi vedevamo i germi, o almeno ne vedevamo alcuni. Avevamo quelli che chiamavamo microscopi e ultramicroscopi. Li avvicinavamo agli occhi e ci guardavamo attraverso, in modo da vedere le cose più grandi di quanto fossero in realtà. E c'erano molte cose che non si potevano proprio vedere senza i microscopi. I migliori che avevamo potevano far sembrare un germe 40.000 volte più grande. Una conchiglia rappresenta 1.000 dita, come quelle di Edwin. Immaginate 40, e così saprete quante volte sembrava più grande un germe quando lo guardavamo attraverso il microscopio. E poi, attraverso altri mezzi come quelle che chiamavamo immagini in movimento, per far sembrare un germe, che già appariva 40.000 volte più grande, ancora molte, molte migliaia di volte più grande. E così vedevamo tante cose che con i nostri occhi soltanto non avremmo potuto vedere. Prendete un granello di sabbia, rompetelo in 10 pezzi, rompiete uno di questi pezzi in altri 10 pezzetti, e poi un pezzetto in altri 10, e un altro in 10, e un altro ancora in 10, e fate così per tutto il giorno, e forse al tramonto avrete un pezzetto tanto piccolo quanto un germe. I ragazzi non celarono la loro incredulità. Labbro leporino sbuffò e sogghignò e ridacchiò fino a quando Edwin, aggomitate, li mise a tacere. La zecca succhia il sangue del cane, ma il germe, dato che è piccolissimo, entra direttamente nel sangue, dove poi fa molti figli. A quell'epoca nel corpo di un uomo se ne potevano formare fino a 1 miliardo. Un guscio di granchio, per favore. Sì, se ne potevano formare fino a un guscio di granchio. Chiamavamo i germi microrganismi. Una persona, quando ne aveva in tutto il sangue alcuni milioni o 1 miliardo, si ammalava. Questi germi causavano le malattie. Ce n'erano di molte specie diverse, più di quanti sono i granelli di sabbia su questa spiaggia. Noi ne conosciamo soltanto pochissime specie. Il mondo microorganico era un mondo invisibile, un mondo che non potevamo vedere, perciò conoscevamo molto poco. Eppure qualcosa ne sapevamo. C'era il Bacillus anthracis, c'era il Micrococcus. C'era il Bacterium thermo e c'era il Bacterium lattis, che è quello, labbro leporino, che ancora oggi fa inacidire il latte di capra. E c'era anche Schizomicetes a non finire, e poi ce n'erano altri. Così il vecchio si lanciò in una disquisizione sui germi e sulla loro natura, servendosi di parole e di frasi di una lunghezza e di un'incomprensibilità talmente straordinarie che i ragazzi si scambiarono un sorriso e si misero a guardare l'oceano, fino a dimenticare che il vecchio stava blaterando. Infine Edwin suggerì: «E il morbo scarlatto, nonno?» Allora il vecchio, con un sussulto, abbandonò il leggio da conferenziere, al quale aveva spiegato diffusamente al pubblico in un altro mondo la teoria più recente, dimenticata da 60 anni sui germi e sulle epidemie, e ritornò al presente. Sì, certo, Edwin, l'avevo dimenticato. Talvolta i ricordi del passato sono talmente vivi in me che dimentico di essere un vecchio lurido vestito di pelle di capra, che vive nomade insieme ai suoi selvaggi nipoti, pastori di capre nella natura selvaggia e primordiale. Tutto ciò che è fugace si scioglie come la schiuma. E così andò distrutta la nostra grande, gloriosa civiltà. Io sono il nonno, un vecchio stanco e appartengo alla tribù di Santa Rosa, di cui ho sposato una donna. I miei figli e le mie figlie hanno sposato persone della tribù degli autisti, di quella di Sacramento e di quella di Palo Alto. Tu, labbro leporino, appartieni agli autisti. Tu, Edwin, appartieni al Sacramento e tu, Ho-Oh, appartieni a Palo Alto. La tua tribù ha preso il nome da una città che si trovava vicino a un altro centro di cultura molto importante, che era chiamato Università di Stanford. Sì, ora ricordo, è perfettamente chiaro. Vi stavo parlando del morbo scarlatto. A che punto della storia ero arrivato? Ci stavi parlando dei germi, rispose Edwin. Quelle creature che non si vedono, però fanno ammalare la gente. Sì, esatto, era arrivato proprio a questo punto. Ebbene, una persona sulle prime non se ne accorgeva quando aveva nel corpo soltanto pochi germi, ma ogni germe si divideva a metà e i germi diventavano due e così via molto rapidamente, finché in breve tempo se ne formavano molti milioni nel corpo. Allora le persone si ammalavano di una malattia che prendeva il nome della specie di germi che l'aveva provocata. C'era il morbillo, c'era l'influenza, c'era la febbre gialla, insomma c'erano migliaia e migliaia di malattie diverse. Orbene, il fatto strano a proposito dei germi è che ce n'erano sempre di nuovi che andavano a vivere nel corpo delle persone. Molto, moltissimo tempo fa, quando esistevano soltanto poche persone al mondo, anche le malattie erano poche. Ma quanto più le persone diventavano numerose, vivevano tutto insieme nelle grandi civiltà e nelle grandi città, tanto più si sviluppavano nuove malattie, nuove specie di germi che entravano nel corpo. Così perdevano la vita milioni, miliardi di persone. E più la gente viveva tutta insieme, ammassata, più erano terribili le nuove malattie che si sviluppavano. Molto tempo prima della mia epoca, nel Medioevo, ci fu la peste nera che colpì tutta l'Europa molte volte. E poi ci fu un altro germe che entrava nelle persone quando vivevano troppo ammassate, quello della tubercolosi. E 100 anni prima della mia epoca ci fu la peste bubbonica e in Africa la malattia del sonno. I batteriologi combatterono tutte queste malattie e le distrussero, proprio come voi ragazzi. Combattete i lupi per tenerli alla larga delle capre, oppure schiacciate le zanzare che vi si posano addosso. I batteriologi. Ma insomma, nonno, interruppe Edwin, cos'erano questi, come si chiamano? Tu, Edwin, sei un pastore di capre. Il tuo compito è sorvegliare le capre e sai molte cose sulle capre. I batteriologi sorvegliavano i germi, era questo il loro compito, e sapevano molte cose sui germi. Dunque, come stavo dicendo, i batteriologi combattevano i germi e riuscivano a distruggerli talvolta. C'era, per esempio, la lebbra, una malattia orribile. 100 anni prima che io nascessi, i batteriologi scoprirono il germe della lebbra. Impararono tutto su quel germe, lo fotografarono persino. Io stesso vidi le fotografie, però non riuscirono mai a trovare un modo per ucciderlo. Nel 1984 invece ci fu la peste pantoinfettiva, una malattia che scoppiò in un paese chiamato Brasile, che uccise milioni di persone. Ma i batteriologi individuarono il germe e trovarono il modo di sconfiggerlo in maniera tale che l'epidemia non si diffuse al di fuori di quel paese. Crearono quello che veniva chiamato un siero, vale a dire una sostanza che, messa nel corpo, distruggeva i germi pantoinfettivi senza uccidere la persona. E nel 1910 ci furono la pella allegra e l'anemia dei minatori, che però furono facilmente sconfitte dai batteriologi. Fu nel 1947 che si manifestò una nuova malattia, mai conosciuta prima. Infettava i bambini di soli 10 mesi, o anche meno, rendendoli incapaci di muovere le mani e i piedi, di mangiare o di fare qualsiasi altra cosa. I batteriologi impiegarono 11 anni a scoprire in che modo uccidere quel germe e salvare i bambini. Nonostante tutte queste malattie e tutte le altre nuove che si manifestavano, la gente divenne sempre più numerosa in tutto il mondo. Più era facile procurare il cibo, più aumentava il numero delle persone. E più la gente era numerosa, più viveva ammassata ovunque. E più viveva ammassata, più i germi di nuove specie provocavano malattie. Queste furono le avvisaglie. Soldavvarensky, già nel 1929, avvertì i batteriologi che non esisteva protezione contro certe malattie, che erano 1.000 volte più mortali di tutte quelle che si conoscevano e che si sviluppavano e uccidevano la gente a centinaia di milioni, persino a miliardi. Thank you.